IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. IA, intelligenza in prima linea. Benvenuti, benvenute. Partiamo subito con un tema particolarmente interessante che probabilmente avrà nei prossimi tempi una considerevole espansione. Saluto subito il nostro ospite, Andrea Silvello. Benvenuto Silvello. Salve a tutti. Co-fondatore di NeoSurance. Quel Surance deve farvi pensare che stiamo per parlare di assicurazioni. Introduciamo il tema così, sperimentalmente, pezzo su pezzo. Allora, vediamo di raccontare questa storia. C'è una signora che sugli sci va a fare uno di quei giri in montagna con la neve insieme ad altri amici e si va fuori pista, sono cose molto belle. Va bene, a un certo momento la raggiunge un messaggino che arriva dalla vostra impresa, poi la spieghiamo perché siete in sintonia anche con altre realtà. E in questo messaggino che cos'è scritto? Beh, in questo messaggino è scritto che è disponibile per la signora una copertura assicurativa specifica. Per quell'azione che sta facendo? Assolutamente sì, stiamo parlando di sci, quindi la copertura potrebbe essere una copertura contro rischi di incidenti collegati alla sua sciata. Quindi la copertura assicurativa è una microassicurazione, come viene definita, che è micro perché costa pochi euro e perché va a coprire un tempo ben specifico, quindi può essere qualche ora, il tempo della sciata, e allo stesso tempo copre un rischio ben specifico perché è predefinito, quindi non ci sono decine certo. di carte da dover leggere per andare a capire quali sono i rischi coperti, che cosa è escluso, ma in maniera molto chiara io so che cosa sto coprendo, per quanto tempo e a quale costo. Le arriva quando? Mezz'ora prima, un'ora prima? Questo dipenderà da quella che sarà la scelta del nostro sistema di intelligenza artificiale, che valuterà di caso in caso quale sarà il momento migliore per andarla a proporre. Diciamo che il nostro sistema dovrà anche imparare facendo, quindi inizialmente saranno fatte dei test per verificare, valutare qual è il momento più opportuno per andare a proporre questa copertura. Comunque mediamente diciamo che è vicino all'evento, può vicino essere all'evento. Mezz'ora prima, un'ora prima o qualcosa del genere. Per generalizzare, noi quello che facciamo, noi siamo un fornitore di tecnologia, noi siamo un provider tecnologico che consente alla compagnia assicurativa da un lato di proporre la propria polizza a degli utenti finali di un'app, come la definisce lei, che noi definiamo una community, quindi un insieme omogeneo per interessi di utenti, attraverso questa app di terzi. Di fatto quello che noi facciamo, noi siamo in mezzo e mettiamo in mezzo la nostra intelligenza artificiale per consentire di proporre la giusta copertura assicurativa agli utenti nel momento giusto. Passando attraverso accordi con app che naturalmente sono davvero tanti, perché le situazioni nelle quali può essere interessante con 5-6 euro procurarsi una giornata assicurata sono davvero moltissime. Voi puntate, adesso state progredendo, no? La cosa non è che esiste da anni, anzi è una proposta piuttosto recente, state procedendo per accordi con tante app. Assolutamente sì, noi siamo la nostra società, la nostra startup è nata un anno e mezzo fa, con grande piacere abbiamo finalizzato proprio negli scorsi giorni, nell'ultima settimana, un accordo molto importante con AXA Italia e andremo a proporre a brevissimo una copertura assicurativa per gli utenti di una app, quindi di una community italiana che si chiama T-Assisto 24, che sarà una copertura per gli italiani, gli automobilisti italiani che si recano all'estero. Quindi nel momento in cui l'utente arriva all'estero ci sarà una copertura di tipo salute, quindi una polizza salute, dove si potrà coprire da un giorno a più giorni davvero a pochi euro. Indubbiamente questa è una grande idea, però lei prima citava intelligenza artificiale. Allora l'intelligenza artificiale, lo diciamo spesso, ha tante facce. Qui Non c'è un pensiero articolato e complesso, c'è una gran capacità però di amministrare, questo è il vostro algoritmo, di amministrare una massa di dati estremamente elevata che vi arriva in continuazione e poter raggiungere il soggetto. Com'è che avviene bene questa cosa? Perché immagino che siano milioni di dati. Sì, allora, come giustamente dice lei, l'intelligenza artificiale ha tante sfaccettature. A me piace sempre dire che l'intelligenza artificiale, così come l'intelligenza umana, è un'intelligenza che evolve nel tempo. un bambino che nasce ha una sua intelligenza, quando evolve diventa un adulto ovviamente l'intelligenza cresce. Noi stiamo iniziando con il nostro sistema di intelligenza artificiale ad andare ad intercettare alcuni singoli dati, alcuni singoli punti che ci consentono di andare a fare queste proposizioni assicurative. Vi ho fatto l'esempio della prima proposta che ci sarà sul mercato a brevissimo, sarà un singolo punto, molto, un singolo dato molto semplice da andare a intercettare, ovvero l'utente che è italiano e che è entrato in un paese estero. Evolvendo, quello che andremo a fare sarà quello di andare a intercettare più dati contemporaneamente, quindi a fare un matching, come si vuol dire, di questi dati, che potranno essere dati collegati all'utente attraverso il suo smartphone o addirittura attraverso dei wearable, quindi dei dispositivi indossabili. Indossabili che l'utente avrà su di sé, con dei dati di contesto, che può essere il tempo, per esempio, piuttosto che l'orario della giornata, piuttosto che tanti altri dati, che potranno essere messi insieme per andare a fare la corretta proposta nel corretto momento. Senta, lei se la deve aspettare questa domanda. Non è che con questo tipo di iniziative, si astraggo un attimo dalla sua specifica, il criterio che viene messo in campo è quello di inondare di proposte la gente e quindi di avere un smartphone che diventa bollente perché ogni 10 minuti, ogni 5 minuti c'è qualcuno che mi propone un'assicurazione? Questa domanda me l'aspetto come? È una, diciamo, delle due domande che mi aspetto sempre. La risposta è no, la risposta è assolutamente no, nel senso che proprio perché il sistema è intelligente, il sistema sarà in grado di andare a fare delle proposte mirate, dove la probabilità di interesse e quindi potenziale acquisto è più alto. E nel momento in cui al singolo utente vengono mandate un numero limitato di proposte e l'utente non acquista, a questo utente non verranno più inviate proposte, almeno per un periodo sufficientemente lungo di tempo per aver dato modo al sistema intelligente di evolvere. Ci sarà grande attenzione ad andare a fare un numero di proposte limitato al singolo utente, cercando poi di proseguire la relazione commerciale con quegli utenti che saranno più attenti e interessati alle proposte che riceveranno. Quindi avete messo anche intelligenza nel costruire un sistema che non sia invasivo, perché effettivamente potrebbe essere micidiale, no? Assolutamente sì, potrebbe essere controproducente, no? Si potrebbe generare esattamente l'effetto opposto, di non andare a fare una proposta al consumatore che è ben gradita, perché nel momento in cui lui può percepire quel rischio, gli arriva una proposta di coprirlo quel rischio, potrebbe essere esattamente l'opposto, no? Quello di andare a creare invece disinteresse e addirittura scocciatura. Quindi c'è stata fatta grande attenzione a questo aspetto. Quindi vuol dire però, e qui stiamo misurando la potenza di questo tipo di sistemi, vuol dire però che queste procedure sono in grado anche di riconoscere permanentemente l'evoluzione delle scelte di un singolo personaggio, di un singolo utente, potendone avere centinaia di migliaia. Il sistema riesce a trattare appunto una marea di dati, ma poi anche proiettarli sul singolo in modo da capire. Lei probabilmente intende questo per evolvere, capire come quella persona lì è raggiungibile da certe proposte e non da altre. Assolutamente sì, il sistema intelligente proprio per questo, anzi anche per questo, perché sarà in grado, andando proprio ad analizzare una quantità molto importante di dati da parte di ciascun soggetto, ad andare a fare la corretta proposta, cioè proprio parando dall'analisi dei dati. Come si dice tailor made, cioè l'abito su misura. Le chiedo un'ultima cosa, va bene, ci ha detto che questi sistemi possono anche essere assolutamente costruiti in modo da non essere invasivi, ma avete fatto i conti con questa attività che sta arrivando da diverse authority su la violazione di quelle che possono essere delle regole di privacy? Assolutamente sì, questo è un aspetto di grande attenzione, di grande sensibilità. Sono state fatte analisi molto approfondite con i nostri legali esperti in tematiche di privacy e allo stesso tempo sono stati fatti con la compagnia assicurativa con cui stiamo partendo con queste prime proposte, delle analisi molto approfondite anche da parte dei loro uffici legali per la corretta modalità di utilizzo e di gestione di questi dati e la corretta modalità di interfacciamento con l'utente. Come per tutte le attività collegate alla messa a disposizione di dati e all'utilizzo di app, dovrà concedere una serie di autorizzazioni all'utilizzo di questi dati per questi fini. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a lei, buon lavoro a tutti, arrivederci. Quindi voi siete lì, state facendo la maionese, potrebbe diventare pazza? Sì, vi arriva un messaggino e voi vi assicurate 5-6 euro. Se volete scrivere a IA Intelligenza in Prima Linea, intelligenza artificiale con 2A, @radio24.it. Buona intelligenza a tutti e a tutti.